2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 29 ottobre 2011, le 15:32 minuti. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro numero verde per chiamarci in diretta, tra poco ascolteremo anche la vostra voce sugli argomenti di questa puntata, 800 24 00 24. Saluto Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica oggi. Ciao Pietro, benvenuto, bentornato. E vi ricordo anche gli altri modi per collegarvi a 2024, ovvero gli sms, se preferite digitare sul vostro smartphone o sul vostro telefonino, 349-238-6666, la nostra pagina Facebook, o anche la posta elettronica 2024@radio24.it. Questa è la settimana in cui Nokia ha presentato al mercato i primi Windows Phone. La nuova serie si chiama Lumia, che piaccia o no, questo è il nome scelto. Il prodotto di punta è il Lumia 800, che secondo l'amministratore delegato di Nokia, Stephen Elop, che è canadese e sta cambiando drasticamente la compagnia, questo è il primo vero Windows Phone. The Nokia Lumia 800 is our first phone built on the Windows Phone platform. We believe Lumia is the first real Windows Phone. Sapete che c'è un legame molto forte, c'è proprio stato un accordo anche economico tra Nokia e Microsoft. Forse anche per questo motivo Stephen Elop ha detto: questo, secondo noi, è il primo vero Windows Phone. Non esiste solo Nokia che propone questo sistema operativo molto interessante, molto innovativo per alcune cose, ci sono anche LG, Samsung, insomma altri produttori che propongono questo sistema operativo di Microsoft, ma c'è un legame molto forte tra le due compagnie, la finlandese Nokia e l'americana Microsoft, per cui per alcuni versi potrebbe essere anche vera questa affermazione. Parleremo di questo annuncio più tardi in questa puntata, quindi vi invito anche a chiamarci proprio su questo tema. Che cosa pensate di questo cambiamento drastico di Nokia, facendo anche dei confronti con gli altri ecosistemi, gli altri sistemi operativi, ovvero iOS, quindi iPhone e tutta la famiglia Apple, e anche naturalmente Android. Dicevo, parleremo di questo, parleremo anche dell'arrivo in Italia del nuovo iPhone, arrivato a prezzi che sono i più alti d'Europa. E sempre parlando di prezzi e di telefonia mobile, di primati, ne abbiamo un altro purtroppo, quello delle tariffe telefoniche tra le più alte d'Europa. Il costo per chiamare un cellulare potrebbe, secondo alcuni, abbassarsi, e ci sono margini abbastanza elevati perché questo possa avvenire, tagliando una cosa che si chiama tariffa di terminazione mobile, così come ci suggerisce di fare la Commissione europea. Allora, dovete sapere che in tutti i paesi europei il costo di una telefonata ad un cellulare comprende una tariffa che si chiama appunto di terminazione mobile. Viene decisa dalle autorità per le comunicazioni nazionali in armonia con le direttive europee, e negli anni 90 il senso originale di questo pedaggio era quello di finanziare le nascenti reti di telefonia mobile per sostenere gli investimenti necessari per costruire queste reti. Si riconosceva agli operatori mobili un premio maggiore rispetto all'interconnessione tra le reti fisse già costruite, già ammortizzate, e tutto ciò aveva un senso effettivamente in una nascente industria della telefonia mobile. Oggi che queste infrastrutture sono oramai capillari su tutto il territorio, mature e in buona parte già pagate, le autorità europee hanno deciso di tagliare questo costo che continua a finanziare gli operatori mobili. Qua la stiamo facendo molto facile, molto semplice. Quando parliamo di tariffe e di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni, le cose sono complicatissime, ma questo insomma è il succo della questione. Giusto per far capire di quali dimensioni anche economiche stiamo parlando, sappiate che nel 2010 gli italiani hanno pagato per questa tariffa di terminazione, che va appunto nelle casse degli operatori mobili, 2,5 miliardi di euro. In Italia la tariffa attualmente vale 5,3 centesimi al minuto per TIM, Vodafone e Wind, e ancora 6,3 per Tre, che è stata l'ultima ad arrivare sul mercato, quindi gode ancora di un leggero vantaggio rispetto agli altri. Quindi sappiate che quando fate una telefonata questi 5,3 centesimi sono decisi da autorità, dalla Agicom.

Il fatto che le tariffe di terminazione mobile debbano essere ridotte è certo, c'è una raccomandazione europea e quindi alcuni paesi si sono già allineati. Noi siamo del 50% con l'attuale tariffa superiore rispetto alla media europea e se adotteremo la proposta della Agcom arriveremo a situazioni di oltre il 90% sopra la media. Io ricordo che ancora prima della raccomandazione nel 2008 l'ex commissario europeo Viviane Reding, adesso è la commissaria invece la Cross, quando già si parlava di terminazioni mobili si espresse abbastanza pesantemente nei confronti della Agcom dicendo che sostanzialmente le decisioni della Agcom erano poco ambiziose, non in linea con la Commissione europea e forse beneficiavano gli operatori mobili nazionali, ma sicuramente andavano contro gli interessi dei consumatori italiani. Quindi mi piace ricordare che anche nella legge istitutiva dell'Agcom c'è la tutela del mercato ma anche dei consumatori. Ecco, l'Agcom dovrebbe tutelare i consumatori in questo caso e seguire per una volta seriamente quanto gli viene chiesto dalla Commissione europea. Io ho firmato ieri pomeriggio questa petizione, vi ricordo che per firmare basta inserire nome, cognome e una email, andate su www.abbassalatariffa.it, ricordate che dopo aver aderito online dovete confermare il vostro sostegno cliccando sul link che vi viene inviato via email, per ragioni di sicurezza naturalmente, perché uno potrebbe andare sul sito, scrivere un indirizzo email di un'altra persona. Se poi non si riesce con l'email a confermarlo, naturalmente insomma, si verifica che quell'indirizzo era fasullo. Per completezza va anche detto che c'è un gruppo trasversale, fortunatamente, di 38 deputati e senatori che hanno scritto all'Agcom per chiedere di seguire le indicazioni delle autorità europee e tagliare quindi le tariffe di terminazione mobile. Questa è una buona notizia che anche la politica si muova in questa direzione. La decisione dell'autorità è attesa per il 3 novembre, c'è una riunione in cui dovrebbe essere presa questa decisione, ma potrebbero anche rimandare. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Vi consiglio di abbonarvi gratuitamente, molto semplice, molto facile, per scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. Per chi ci chiede, questo capita tutte le settimane, se esiste un'applicazione per Android, potete ascoltare in diretta ma anche riascoltare questa nostra trasmissione anche attraverso Drivecast. Trovate un link sul nostro sito internet, quindi www.radio24.it, oppure andate su drivecast.eu. È possibile fare il download della nostra puntata, ascoltare anche in diretta da Radio 24 su computer, Mac, su dispositivi sia Apple, iOS, Android e anche su una serie di smart TV, insomma, quindi un sistema piuttosto ampio. Le 15:45 minuti, riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, vi ricordo che parleremo oggi nella seconda parte con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it, di telefonia mobile in generale, partendo dall'annuncio fatto questa settimana, dalla presentazione sicuramente molto attesa dal mercato dei nuovi Nokia con Windows Phone, una vera e propria rivoluzione per Nokia che non abbandona Symbian, che rimane il sistema operativo di una fascia medio-bassa di telefoni e smartphone, ma sicuramente per la fascia alta del mercato, per fare concorrenza ad Apple e ad Android, ha scelto già 8 mesi fa, è stato fatto l'annuncio, di passare a Windows Phone e per questa settimana sono stati presentati i primi due telefoni, i primi due smartphone che saranno sul mercato nelle prossime settimane. Si parte dal modello di punta che sarà disponibile dal 19 novembre anche in Italia. Dunque, da un po' di tempo non si parla più di digitale terrestre, il passaggio completo alla TV digitale si sta completando in Liguria, dove si concluderà la prossima settimana, il 4 novembre. Succede così, purtroppo, se le cose accadono a Milano e a Roma, visto che i media sono qui, sono a Milano e a Roma la maggior parte, si parla insomma di quello che sta accadendo nel paese. Poi, visto che il digitale terrestre sia a Milano che a Roma è già stato implementato da un po' di tempo, non se ne parla più, però appunto ci sono alcune regioni che stanno passando. Ad esempio, da questo weekend Genova è passata definitivamente al nuovo sistema digitale, poi sarà la volta di Toscana e Viterbo dal 7 al 22 novembre, dal 23 al 30 novembre ci sarà il cosiddetto switch off, lo spegnimento delle frequenze analogiche in Umbria. Infine le Marche per lo spegnimento della TV analogica dovranno aspettare il 21 dicembre. Nel primo semestre 2012 seguiranno le ultime regioni, che sono parecchie: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 4 anni dalla prima regione ad avere completato lo switch off, ovvero la Sardegna. Il calendario completo e più dettagliato è disponibile sul sito internet digitvi.it. metteremo magari un link anche sulla nostra pagina internet. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Sony acquisterà da Ericsson il 50% delle quote della joint venture Sony Ericsson, nata nel 2001 dalla fusione delle divisioni di telefonia mobile delle due aziende. Ericsson saluta quindi il settore, incassando, pensate però, poco più di 1 miliardo di euro, mentre Sony dovrebbe sempre più integrare questo business con tablet, PC e TV. Digital News. Samsung ha presentato il Note, un piccolo tablet o un grande smartphone, dipende dai punti di vista, display da 5,3 pollici, c'è chi sostiene che sia una nuova categoria di prodotto destinato soprattutto ai professionisti. Il nuovo terminale sarà disponibile anche in Italia a partire dal 10 novembre tramite operatore o sul mercato libero al prezzo di 699 euro. Ricorderete che la settimana scorsa Gianfranco Lanci, che attualmente è super consulente per Lenovo, aveva detto a 2024 di non credere che HP avrebbe esternalizzato la sua divisione PC. Si parlava di uno spin-off. Questa settimana HP, che è ancora oggi il più grande produttore di computer al mondo, ha annunciato che terrà all'interno del perimetro aziendale la divisione PSG, che sta per Personal System Group. È una delle prime importanti decisioni prese dal nuovo capo di HP, la signora Meg Whitman. Digital News. Speriamo che la Whitman metta un po' a posto le cose, perché negli ultimi tempi HP ha preso qualche sbandata di troppo. A proposito di HP, una notizia importante per tutta una serie di scenari che può aprire, anche se non è ancora ufficiale: l'azienda di Palo Alto farà server con architettura ARM, la stessa che oggi viene utilizzata per quasi tutti i processori di smartphone e tablet, perché molto efficiente nel consumo energetico. La riduzione del consumo di energia è infatti una delle grandi esigenze anche dei server e dei grandi data center. Tutte le grandi aziende della rete cercano di ridurre il consumo di energia da un lato, o cercare energia a basso costo. È il caso ad esempio di Facebook, che questa settimana ha iniziato i lavori per la costruzione di un mega data center nel nord della Svezia, dove, oltre ad esserci energia prodotta da fonti rinnovabili, insomma prezzi anche piuttosto interessanti, c'è anche freddo e quindi una minore necessità di raffreddare i server del centro elettronico. Google ha iniziato ad estendere il servizio Street View anche all'interno dei locali pubblici. Sapete che Street View vi permette di andare su una mappa, scegliere una via e vedere una rappresentazione fotografica e navigare all'interno di quella strada o in una piazza, vedere proprio com'è nella realtà. Ora gli hoteli, i ristoranti e tutti gli altri tipi di locali pubblici potranno aderire al servizio e chiunque potrà, oltre che vedere la strada, anche entrare e vedere ad esempio un hotel, un ristorante, eccetera eccetera. Le prime sperimentazioni fatte su base volontaria, quindi non è che i fotografi vengano dentro al tuo ristorante e facciano le fotografie, insomma bisogna aderire volontariamente. Dicevo, le prime sperimentazioni sono iniziate a Londra, Parigi, in alcune città del Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Ultima notizia riguarda l'Italia: si terrà il 16 dicembre l'udienza al Tribunale Civile di Milano per valutare la richiesta di Samsung di fare bloccare le vendite dell'iPhone 4S in Italia. Samsung accusa Apple di aver violato 2 brevetti e il Tribunale ha dato tempo alla casa coreana di rispondere ad una memoria già presentata da Apple. Adesso parliamo di Amazon, che dopo aver aperto il sito italiano.it a novembre ha inaugurato il primo centro di distribuzione in Italia a Castel San Giovanni nel Piacentino. Finora i prodotti arrivavano dall'estero. quello inaugurato questa settimana, attivo già da un mese, è uno dei 17 centri di distribuzione aperti nel 2011 sui 60 presenti in tutto il mondo. Potranno nascere nuovi servizi. Stefano Perego ne racconta uno. Perego è responsabile della logistica in Italia per Amazon, intervistato da Giacomo Segantini. Comporta una velocità maggiore e comporta la possibilità di pianificare dei servizi futuri sempre più veloci, sempre più rapidi. L'esempio te lo posso dare usando la Francia. Abbiamo lanciato su Marsiglia un servizio in cui tu piazzi un ordine sul nostro centro di Montélimar entro l'1:30 del pomeriggio e consegni a Marsiglia tra le 7 e le 10 di sera del giorno stesso. Quindi ci possiamo aspettare anche in Italia dei servizi di consegna premium ancora più veloci. Questo sarà molto legato all'evoluzione della nostra relazione col trasportatore. Cioè, per ballare bisogna essere in due in quel senso lì. Però sicuramente traiamo ispirazione da quello che facciamo in altri paesi. E questo è il primo centro logistico in Italia per Amazon, che finora, come dicevo, aveva il sito italiano.it, ma non una presenza fisica. In effetti, per molti settori gli altri store online in Italia rimangono superiori ad Amazon, che però ha una forza commerciale così potente, così forte, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni sicuramente incrementerà la quota di mercato e farà molta concorrenza, insomma, anche ai player italiani. Mancano pochi minuti alle notizie di GR24. Nella nostra seconda parte, come vi ho anticipato, parleremo di questa nuova Nokia che si è presentata al mercato questa settimana con questi nuovi prodotti di cui parleremo, ma anche dei prezzi dell'iPhone molto alti, con Gianfranco Giardina, che è responsabile del magazine digitale dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiremo, perché mette un po' di sale e di pepe nella nostra discussione, da una tabella che voi avete pubblicato sui prezzi dell'iPhone, che visti in un modo, visti in un altro, sono i più alti d'Europa. Sì, sia i prezzi, diciamo, del libero mercato, quindi quello che si può acquistare come prodotto finito, che sono comunque importanti, molto alti, e anche quelli recentemente comunicati dagli operatori, quindi per avere l'iPhone 4S con un abbonamento. Non abbiamo inserito, perché le variabili poi in gioco diventavano troppe, invece le soluzioni che permettono di avere sempre iPhone 4S con delle ricaricabili, però con dei vincoli di ricarica, insomma un po' troppo complicato. Però anche lì scopriamo che ci vogliono molti soldi. Sì. Bene, allora chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24, anche per dire la vostra su questa concorrenza che c'è nel mondo della telefonia mobile con l'arrivo di Nokia e Windows Phone sempre più accesa. 800 24 00 24, ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata alle 16:08. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Gianfranco Giardina, direttore di dday.it. Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica e Alessandro Balia ci aiuta in redazione. Chiamateci al nostro numero verde, oggi vi chiediamo di partecipare a questa discussione tra sistemi operativi e produttori di smartphone, ormai non li chiamiamo più telefonini. Ad esempio, saremo curiosi di sapere il vostro parere su iOS, Android e su Windows Phone, che sta crescendo molto bene questa settimana. Come dicevo all'inizio della nostra trasmissione, Nokia ha presentato il primo Windows Phone della casa finlandese. Come ha detto Stephen Elop, loro ritengono di aver presentato il primo vero Windows Phone. Today I am so excited and proud to introduce you to the Nokia Lumia 800. E qua c'è stato anche qualche applauso di alcuni appassionati di Nokia che aspettavano da tempo questa rinascita. È per molti versi una vera e propria svolta. Gianfranco, un primo parere su Windows Phone, che, come dicevo, sta crescendo molto, molto forte, un sistema operativo molto semplice, addirittura alcuni hanno detto non sembra nemmeno un Windows. Beh, è un sistema operativo nuovo, nuovo almeno nell'edizione che è uscita qualche mese fa, e completamente riscritto, che addirittura non aveva delle funzioni molto anche basilari e semplici di tutti i predecessori Windows Mobile, cioè quindi di tutti i sistemi operativi precedenti sempre marchiati Windows. Questo evidentemente perché è stato proprio ripensato, riscritto da capo. Una cosa va detta molto chiara: questi telefoni di Nokia, come anche i vecchi telefoni Windows Phone 7, vecchi hanno neanche un anno, ma insomma, sono ormai aggiornati a quello che viene chiamato in codice Mango, ma alla versione 7.5. Io l'avrei forse chiamata 8, ma per sincronia tra Windows 7, quello desktop, e Windows Phone 7, non si è speso il numero nuovo, ma si tratta effettivamente di una major release. Le funzioni all'interno sono nuove, sono tante, che non lo rendono uno smartphone per certi versi eccezionale, nel senso delle funzionalità. L'ultimo iPhone probabilmente ha delle funzionalità in più, ma lo rendono uno smartphone assolutamente completo, finito, cosa che forse nell'edizione precedente non e poi era. Soprattutto alcuni dicono uno smartphone che con questo sistema operativo funziona molto bene, che sia facile da usare. Allora, l'interfaccia è sicuramente molto facile, più facile, poi qui si va nel campo anche delle opinioni, ma più facile di Android a mio avviso, assolutamente consistente, quindi l'esperienza d'uso è coerente in tutte le sue funzionalità. È anche un'esperienza di uso soddisfacente, perché Microsoft ha blindato in qualche modo i requisiti hardware. Si sa che è sempre un problema fare un sistema operativo e lavorare con dei produttori terzi che fanno invece l'hardware. Apple ha scelto di avere in mano il pallino in entrambi i settori, quindi di fare sia il software che l'hardware, e l'esperienza d'uso effettivamente si vede, non succede niente o quasi niente che non sia previsto da Apple stessa. Microsoft ha scelto una via di mezzo rispetto, per esempio, a quello che ha fatto Google con Android. Cioè, Google con Android ha lasciato liberi tutti, questi sono i sorgenti, questo è il nostro sistema operativo, fate un po' customizzatelo e fatelo. Microsoft ha detto: do il sistema operativo solo ai produttori che seguono questi requisiti. E questo nella primissima fase ha reso i terminali Windows Phone 7 un po' costosi, erano intorno nella fascia dei 450-500 euro, quindi non propriamente accessibili a tutti, e si sentiva la mancanza di un qualcosa un pochino più da mezzo mercato. Devo dire che adesso la cosa sta un po' cambiando, perché... Esatto. Innanzitutto i terminali già usciti, che si sono aggiornati a Windows Phone 7.5, oramai hanno dei prezzi, per la classica svalutazione dell'elettronica, molto più accessibili. Sì. E poi i prezzi con cui ha annunciato Nokia sono sicuramente interessanti. Esatto, questo è uno dei punti di cui poi parleremo. A proposito di svolta per Nokia, sentiamo che cosa ne pensa Carolina Milanesi, che è spesso nostra ospite, che è vicepresidente di Gartner e responsabile per la Consumer Electronics. Sì, senz'altro, siamo a un bivio. La Nokia ha investito in questa piattaforma da febbraio e secondo me oggi ha dimostrato di poter effettivamente dare ai consumatori un'alternativa, se non magari ancora all'iPhone, senz'altro ad Android. Ecco, quali sono attualmente i veri concorrenti e soprattutto qual è il mercato che Nokia potrebbe riguadagnare? Secondo me, se io fossi in Nokia, come target avrei il consumatore che è andato magari dalla Nokia stessa ad Android, ma dove vedo poca lealtà all'ecosistema e più un discorso di moda e di tendenza, e dove per il consumatore quello che vende è il telefonino, quindi l'hardware, che Nokia sa fare benissimo, quindi potrebbero senz'altro competere lì, e poi la parte invece di browsing, quindi di internet, e l'interfaccia con il touch. Poi al consumatore, secondo me, alla maggioranza del consumatore che ha comprato Android, l'ecosistema di Google non interessa poi così tanto. Quindi è più facile per Nokia vincere un consumatore del genere che non un consumatore che è andato da Apple e adesso ha una vita diversa, perché è legato comunque in questo sistema molto, molto chiuso, ma anche molto gratificante. C'è qualche cosa che questi prodotti, soprattutto l'800, che è un po' il prodotto di punta, ha di più rispetto ai concorrenti? Quindi il consumatore che va in negozio trova effettivamente qualche cosa di più? Ma le due cose che Nokia ha portato oggi, a parte un prezzo molto interessante, sono i due servizi, uno di musica e uno delle mappe con il discorso della guida, quindi mappe che sono specificatamente create per l'utente che guida. E secondo me queste due cose sono interessanti, e come ho detto la cosa principale secondo me è il prezzo, perché 420 euro, sì, che diventano 499 in Italia con le tasse, esatto, è un prezzo molto interessante. A proposito di prezzo, che cosa ne pensate? Costano troppo questi smartphone? Android è, come dicono alcuni, troppo frammentato, troppo incasinato? Insomma, qual è la vostra esperienza? Numero verde 800 24 0024, riprendiamo tra un minuto. 2024. A proposito di nuovi servizi che Nokia ha lanciato assieme al nuovo smartphone, il Lumia 800, che ricordo sarà sul mercato anche in Italia a partire dalla metà di novembre, 19 novembre, oltre alla navigazione, questo è un bel sistema Nokia Drive che vi permette di avere un navigatore satellitare utilizzabile anche offline, quindi anche senza essere collegati alla rete. Una cosa che mi piace, visto che siamo alla radio, lo cito, Nokia Mix Radio è un'applicazione disponibile solo sui telefoni Nokia, anche se c'è il sistema operativo Windows Phone su altri produttori. Non richiede alcuna registrazione, nessuna pubblicità, nessun login, insomma tutto gratis, subito disponibile nel telefono. È un servizio con 15 milioni di canzoni e si possono fare cose del tipo ascoltare uno dei canali in streaming diversi per genere, anche per localizzazioni all'interno delle nazioni. Vedremo, ad esempio, in Italia probabilmente ce ne sarà uno con la musica italiana. Poi si possono scaricare in locale sul telefono, quindi senza essere connessi, fino a 14 ore di musica o 200 canzoni che rimangono disponibili sullo smartphone per 4 settimane. Si possono anche fare dei mix, cioè scegliere canzoni di canali diversi e metterle in un canale con le proprie preferenze. Insomma, una cosa sicuramente molto interessante. Gianfranco, secondo te per Nokia ci sarà la possibilità, riuscirà Nokia a distinguersi dagli altri produttori che offrono Windows Phone? Carolina Milanesi accennava ad esempio all'hardware. Vedendo questo telefono e tenendolo in mano, devo dire che questo è un prodotto che dà l'idea di essere ben costruito, insomma affidabile. Ma Nokia è diverso tempo, alcuni mesi, forse qualcosa di più, che però in tecnologia sono ovviamente tantissimo tempo, che non ha uno smartphone veramente competitivo. E malgrado ciò, il nome Nokia è ancora molto forte. Io credo che sia su quello che Nokia deve puntare e punterà. Io credo che ancora oggi, dovendo scegliere tra due telefoni apparentemente equivalenti per prezzo e prestazioni, alla fine il consumatore si orienta automaticamente sul nome Nokia. C'è una grande fascia di consumatori che trova ancora in Nokia una grande significato di qualità, significato di qualità che è stato acquisito negli anni. I telefoni Nokia sono stati in tasca per tanti anni a tutti gli utenti che li hanno avuti e sono sempre stati molto contenti, soprattutto di un aspetto che è molto debole in molti smartphone, cioè la qualità della ricezione. Ah, sì, sì. Della funzione basilare, quella che sarebbe la funzione basilare, cioè della telefonia. Cioè iPhone non ha mai brillato da questo punto di vista, ha supplito questa debolezza con tutte le altre funzioni che ha. Se Nokia, ma questo quando proveremo i telefoni, farà finalmente uno smartphone che però ha le prestazioni di ricezione telefonica dei vecchi, tra virgolette, telefoni Nokia che conoscevamo bene, io credo che il gioco sarà fatto. Quanta gente mi dice, io con il mio vecchio, poi mi cita una sigla perché ce ne sono tantissimi, ricevevo benissimo, avevo una batteria che durava tantissimo. Perché anche, senti, una cosa che può sembrare stupida ma invece interessante: quando ho preso in mano questo Lumia 800, allora a me il nome Lumia non è che mi piace tantissimo, però così hanno scelto. È un nome internazionale, forse in Italia. Sì, sì. Non suona benissimo. Dicevo, quando l'ho preso in mano, oltre ad avere questa sensazione, insomma, di un prodotto ben fatto, ben costruito, però ho subito detto, ah, però un po' pesante, e pesa più o meno come l'iPhone 4, quindi non è un difetto, un problema il fatto che sia pesante? Allora, pesante, poi anche questo andiamo nel campo delle opinioni. È tutto relativo, però nell'ambito di tutti gli apparecchi portatili, ma quindi parlo dai notebook ai tablet, ma anche videocamere, fotocamere e ovviamente telefoni e smartphone, c'è sempre stata una ricerca ad abbassare il peso, abbassare anche le dimensioni per certi versi. Poi si è arrivati ai telefoni che non possono essere più piccoli di un po' perché sono ormai tutto display, però sul peso si è sempre lavorato. In realtà siamo arrivati forse a un limite tale per cui il peso del telefono, il peso di un iPhone per esempio, ma anche il peso di questi nuovi telefoni Nokia è assolutamente resta comunque nell'ambito della comodità, no? Si può sì. portare in giro senza avere fastidio. Però dà una sensazione di solidità, cioè l'apparecchio è piccolo ma è pesante, cioè iPhone è piccolo ma è pesante, questo nuovo telefono è piccolo ma è pesante e dà senso di densità, cioè è qualcosa che è denso. Il concetto di densità in realtà nel maneggiare un prodotto di elettronica corrisponde proprio nel feeling con il prodotto ha la sensazione di solidità, di robustezza. Poi bisogna vedere se è vero, però la sensazione del consumatore quando prende un qualcosa che è denso dice beh, questo è solido, questo funziona, questo... Invece ci sono alcuni smartphone leggerissimi, direi fin troppo leggeri, che però presi in mano danno un po' la sensazione di quella che chiamiamo sensazione di plastica. Ecco, in quel caso probabilmente magari c'è anche una plastica che è super resistente oppure materiali tipo le leghe particolari, magnesio o altre sostanze di questo tipo che sono molto leggere, alluminio, che sono molto leggere. Io sono arrivato a pensare anche che qualche produttore potesse pensare di zavorrare il proprio telefono per dare proprio quel feeling un pochino più pesante. Non credo che sia stato fatto nel caso di Nokia, ma comunque siamo nell'ambito del peso assolutamente sopportabile che però in negozio conta molto per favorire le vendite. Sono le 16:23 minuti. Matteo chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno Matteo. Sì, salve. Senti, io volevo fare una domanda. Io ho un N8 che montava il vecchio Symbian 3. Volevo sapere se questo nuovo sistema operativo si potrà installare anche su questi tipi di telefoni. Grazie Matteo. Io però vorrei fare una domanda, Matteo. Visto che uno dei temi di cui vogliamo parlare oggi è anche il prezzo, tu sei disponibile, al di là poi dei marchi, dei sistemi operativi, Windows Phone, Nokia, Android, Samsung, Apple, eccetera, eccetera, ma a spendere così tanti soldi, perché stiamo parlando comunque di, in questo caso, 500 euro, ma altri telefoni costano anche di più, come l'iPhone, così tanti soldi per uno smartphone che effettivamente fa tante cose e ci aiuta nella vita. Tu che cosa pensi? Costano un po' troppo? Ma guardi, secondo me... Il telefono migliore che c'è in questo momento sul mercato è la Galaxy S2, che monta comunque l'Android 2.3. E io, cioè, per un telefono del genere, sarei disposto a spendere quei soldi. Grazie Matteo, qua mi dicono tutti no, no, secondo noi no, non è quello lì il migliore, perché infatti poi sul migliore ci sono mille motivi di discussione. Dunque Gianfranco, io direi che non si può installare Windows Phone su assolutamente no, purtroppo non si può, non ci sono percorsi di migrazione di questo tipo, anche perché l'hardware non sarebbe poi direttamente compatibile. Abbiamo detto che Microsoft ha richiesto proprio l'adozione di alcune soluzioni hardware particolari ai propri produttori e quindi ovviamente l'N8 non era stato pensato in questa direzione, tant'è vero che Nokia ci ha messo un po' per uscire con questi nuovi telefoni, anche se il design non è innovativo nella famiglia Nokia, è molto simile ad altri telefoni Nokia, quindi non hanno lavorato sul design, hanno lavorato sull'hardware interno e sullo sviluppo delle applicazioni proprietarie software. Sì. Sentiamo ancora Carolina Milanesi, perché un altro dei temi di dibattito, io ho notato subito sul palco del Nokia World che c'è stato mercoledì e giovedì a Londra con, devo dire, un investimento di marketing di Nokia piuttosto ingente, piuttosto interessante, perché c'erano più di 3.000 ospiti, padiglioni giganteschi. Dicevo, non è salito nessun finlandese. Noi eravamo abituati a sentir parlare, anche a sentire dei nomi strani. Anche questo è un senso del cambiamento e non è sicuramente un caso. Sentiamo ancora Carolina Milanesi. No, non è un caso, è la Nokia che sta cercando di far vedere che è una compagnia diversa da quello che era, dove diciamo che l'anima della compagnia c'è sempre, e si è visto anche carinamente secondo me oggi con la connessione in live video a dove fanno i telefonini in Finlandia, no? alla loro fabbrica. E quindi c'è questo ancora questo grande rispetto e attenzione alla Finlandia come il mercato, il punto di base. Però la compagnia deve essere diversa. Il mercato si è spostato dall'Europa all'America. Tutto succede lì. Il mercato adesso è molto centrato sull'internet e questi sono ancora una volta dei punti dove l'America è molto forte. Quindi avere una messicana d'origine che ti balla sul palco cercando di far capire l'importanza della musica per i paesi emergenti è una buona cosa. A proposito di operatori, perché in questo mercato forse in Italia lo vediamo poco, ma in generale gli operatori sono molto importanti, c'è chi dice che agli operatori fa piacere vedere una Nokia che sta tornando ad essere innovativa e comunque propone cose nuove per fare un po' di pressioni sia su Apple sia su tutti i produttori che presentano Android, è vero o no? Assolutamente, se guardiamo dal punto di vista dell'operatore, lavorare con Apple, ovviamente sono loro che decidono un attimino le condizioni, no, del mercato, perché hanno una brand così forte, un marchio così forte. Anche dal punto di vista di costo, mentre il consumatore vede che l'iPhone adesso è gratuito per il 3GS e $99 per il 4 a 8 mega, per il carrier, per l'operatore non è gratuito, quindi c'è ancora molto investimento. E dalla parte di Android, secondo me la preoccupazione per gli operatori è proprio di chi controlla alla fine il consumatore e di diventare quello che Schmitz è stato il primo a dire, di diventare soltanto una banda, no? Di avere il network e offrire solo quello. Una domanda che faccio sempre: cosa ti convince di più sul mercato oggi? Finora mi hai risposto Apple, iPhone, ma tutto l'ecosistema Apple. Oggi, di fronte a queste novità e quindi ad una Nokia, insomma, che sposa ufficialmente Microsoft e quindi che sicuramente presenterà altri prodotti di questo genere, cambia questa tua vostra visione? Ma la nostra visione, a dire la verità, è sempre stata positiva per quanto riguarda il rapporto tra Nokia e Microsoft, e abbiamo una stima per quello che può essere il mercato, la quota di mercato di Microsoft nel 2015 intorno al 18%. Secondo me, dopo quello che ho visto oggi, quel 18% lì potrebbe essere un po' basso. Bisogna vedere quello che faranno gli altri giocatori nel campo di Windows, perché c'è molta incertezza nella parte Android, quindi un HTC piuttosto che un LG o una Samsung potrebbero magari ripensare un attimo come splittare come dividere il loro portafoglio prodotti. Ma la Apple? Non credo che si preoccupino necessariamente di prodotti che sono stati lanciati oggi. Secondo me ci sarà ancora un po', come ho detto, ancora un po' prima che la Nokia effettivamente possa togliere o mettere un pochino di pressione su Apple. Prima Android, poi arriveremo magari a vedere quello che possano fare su Apple. Mi sembra molto chiaro il pensiero di Carolina Milanesi, analista di Gartner. Le 16:29 minuti, questo è 2024 su Radio 24. Il nostro numero verde per partecipare a questa discussione in onda, in diretta, 824 0024, a tra poco. 2024. Adesso parliamo anche di Android, perché alcuni dicono, ma del resto anche poco fa lo abbiamo sentito, che l'offerta di Android sia un po' troppo frammentata, ci sia poco controllo proprio per come è nata questa piattaforma, questo sistema operativo. Google ha fatto da capofila per lo sviluppo e poi ha detto liberi tutti, chi lo vuole utilizzare lo può utilizzare, e come spesso accade non è tanto complicato costruire un sistema operativo, ma la cosa più complicata è garantire nel tempo il supporto. Gianfranco, c'è uno studio che voi avete riportato su dday.it che ci dice grosso modo che è vero tutto ciò. Sì, è una semplice ricerca che è stata fatta da un blogger americano, e adesso noi la riportiamo in home page proprio in questi giorni, che ha guardato che cosa succede nei primi tre anni dopo il lancio di alcuni smartphone, dei principali smartphone, quindi tutte le edizioni, diciamo, di iPhone e i principali Android. E quello che salta fuori è che mentre tutti gli iPhone per tre anni, diciamo, sono stati sempre aggiornati e aggiornabili con le nuove versioni del sistema operativo, magari non con alcune funzioni che alcune mancanze di hardware non permettevano, ma tutti i sistemi operativi sono stati sempre forniti gratuitamente, Android primo non è stato aggiornato, cioè non tutti i terminali, per non tutti i terminali vengono rilasciati gli aggiornamenti. E poi in alcuni casi vengono anche lanciati con versioni che non sono le più attuali. Sì. Cioè la personalizzazione che è stata fatta per quel telefono magari è stata sorpassata da un'altra major release o un'altra release importante comunque da parte di Google. Quindi nascono, come dire, già con una versione non aggiornata e si scopre che vengono un po' abbandonati a loro stessi anche dopo poco tempo. Infatti c'è un grafico molto eloquente da questo punto di vista che fa vedere che le barrette diventano rosse quando un telefono è superato da almeno tre versioni di sistema operativo, e nei telefoni Android le barrette rosse sono tante, come dire, belli quando sono sullo scaffale ma poi un po' abbandonati a se stessi dopo. Allora, Apple da questo punto di vista non fa così, anche se va detto che qualche scelta discutibile la fa anche Apple. Per esempio mi viene in mente Siri, che è l'assistente virtuale che c'è sul iPhone 4S, ecco, c'è solo su iPhone 4S, e si dice per le prestazioni hardware della macchina, ma a me resta qualche dubbio, visto che poi tutta la capacità di riconoscere la frase e di darmi una risposta viene svolta da un server remoto, quindi viene svolta nella cloud, quindi a questo punto forse i requisiti hardware non erano così tanti, si poteva abilitare anche gli altri terminali a Siri, soltanto che evidentemente le spinte per poi vendere iPhone 4S sarebbero state molto più deboli, visto che non è una rivoluzione ma solo un'evoluzione della precedente edizione. Quindi da un certo punto di vista mi viene da dire che Apple garantisce a tutti l'aggiornamento, però alcune scelte, diciamo, a suo vantaggio le fa. Su Android la situazione è un po' più anarchica, quindi è un pochino più difficile avere garanzie. Beh, diciamo che alcuni apprezzano Android proprio per questa anarchia, che è anche un po' una libertà maggiore, però poi ci sono tutta una serie di contro, cioè. Esatto. Dunque ci sono alcuni ascoltatori che scrivono dei lunghi messaggi, noi apprezziamo, adesso io non ho tutto il tempo per prestare attenzione a questi messaggi, preferisco sempre sentire la vostra voce, essendo noi alla radio. Allora, prima Francesco, poi Roberto. Il nostro numero verde, ve lo ricordo, è 800 24 00 24, numero verde che significa numero gratuito. Francesco, buongiorno, chiama dalla provincia di Bari. Buongiorno, salve. Senta, io ho un'esperienza con Android di circa un anno e posso soltanto dire che è vero in parte quello che è appena stato detto, nel senso che nell'arco del 2010 gli aggiornamenti arrivavano veramente con poca frequenza da parte delle aziende produttrici. Nel 2011 già sono cambiate un po' le cose nella direzione giusta. Le posso fare un nome commerciale: Sony Ericsson, che adesso diventerà soltanto Sony, ha operato questa inversione di tendenza, e quindi oggi ci sono stati nell'arco del 2011 quattro aggiornamenti per la sua gamma. Sì, sì, chiaro. Quindi volevo far capire che, insomma, stanno cambiando, hanno capito anche loro che tipo di strumento hanno nelle mani i clienti e quindi si stanno avvicinando di più. Grazie Francesco, buona giornata. Roberto della provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione, vi ascolto spesso e volentieri. Grazie molto. Prego. Probabilmente vi farà un po' sorridere, però il mio problema più grosso, il problema più grosso anche di tanti che hanno degli smartphone, è il fatto di dover praticamente andare in giro col caricabatterie. Ah sì. Ecco, le spiego subito. Io, per carità, sono sempre stato un utilizzatore di Nokia e secondo me Nokia è sempre stata un'ottima marca per la semplicità d'utilizzo, eccetera. Dopo ho avuto esigenza di comprare uno smartphone, siccome sul mercato Nokia non c'era, sono andato su Samsung e mi trovo molto bene. Però il problema di noi che utilizziamo Samsung o di quelli che utilizzano anche spesso l'iPhone è proprio questo, cioè c'è la possibilità, io mi spenderei volentieri 500 euro lo dico sinceramente, se qualcuno mi dicesse, guarda, ho il telefonino che non serve che ti porti dietro costantemente, sto cavolo di carica batterie che capisco che il sistema operativo sia abbia bisogno di una forte energia, eccetera, ma da una volta dove sì, si utilizzava sì. Ogni 5 giorni adesso nemmeno 24 ore sta su. Chiaro, anche, no, se è vero, anche se non di palla, ecco, vi ascolto volentieri per sapere se c'è qualche possibilità in futuro. Grazie Roberto, il tema della batteria è uno dei temi fondamentali quando si parla di smartphone. Effettivamente i primi smartphone erano un disastro e anche oggi molti insomma sfigurano. Anche per questo io sono un sostenitore ancora oggi di BlackBerry, perché BlackBerry normalmente garantisce una durata della batteria piuttosto lunga, anche perché è pensato per il lavoro, per chi tutto il giorno magari è in giro in automobile e non dovrebbe star lì a pensare a caricare la batteria. Gianfranco, è vero, ma pochettino le cose stanno cambiando. Pochettino. Allora, un pochettino le cose stanno cambiando, però stanno cambiando anche gli utenti e le abitudini degli utenti. Un telefono, prima, quello che uno si ricorda, ma il mio cellulare una volta durava una settimana e non lo caricavo mai, 10 giorni non lo caricavo mai. Sì, ma lo usavi soltanto per telefonare. Adesso a qualsiasi fermata dell'autobus, in qualsiasi stazione, in qualsiasi momento della giornata, noi vediamo gente che sta manovrando sul proprio smartphone, non per telefonare, ma per navigare internet, per interagire con social network. Lo fa spesso e volentieri in 3G e la modalità 3G consuma molta più energia, è una fonte fondamentale di consumo di energia, quindi l'unico vantaggio di andare, per esempio, se si vuole soltanto avere pochi dati per volta nelle altre modalità, quindi GPRS e non 3G, è proprio quella di consumare molta meno energia. E i display più grandi sono, ahimè, più consumano, e su questo non c'è niente da fare. Quindi le batterie sono migliorate molto, ma è molto diventato l'utilizzo da parte degli utenti è diventato molto più aggressivo. E quindi queste due cose stanno un po' correndo di pari passo e fanno sì che ovviamente tutti i possessori di smartphone, o la stragrande maggioranza di essi, debba caricare tutte le sere il proprio telefono, e alcune volte spera di arrivare a sera, oppure si deve portare caricabatterie per l'auto, eccetera, eccetera. Le tendenze sono quelle di migliorare ancora le batterie, ma io dico anche forse di modificare qualche cosa sulla rete. Qualche utente avrà osservato che andando in altri paesi esteri il proprio telefono guadagna in autonomia. Si tratta delle verifiche incrociate, diciamo, che le celle fanno sul telefono costringendolo a rispondere per notificare la propria presenza. Ecco, in Italia queste sono molto frequenti, quindi il telefono si trova, quando non lo usiamo, molto frequentemente a dialogare con la propria cella, in altri paesi molto meno. Ovviamente il gestore non è interessato al fatto che ci sta scaricando il telefono, però ed è interessato all'efficienza della propria rete, va da sé. Però io credo che forse una buona via di mezzo possa essere trovata, ma bisognerebbe parlare con i tecnici che governano queste cose all'interno del cuore dei centri dati dei gestori. Lo possiamo fare, possiamo anche invitarli. Ci sono tantissime altre cose che le reti italiane non fanno, ad esempio l'aggiornamento automatico dell'orario. Io ho viaggiato insomma in questi ultimi tempi e in alcuni paesi lo si fa, la rete suggerisce al telefono che ora è, quindi uno c'ha sempre l'orario puntuale. Qua io non sono ancora riuscito a trovare una rete efficiente da questo punto di vista. Luca da Verona, buongiorno. Buongiorno, sì, sono fondamentalmente d'accordo sul fatto dei consumi dei telefonini che adesso diventano sempre più elevati, e probabilmente in effetti a me capita di andare spesso in Inghilterra e in Belgio, lì effettivamente consumano meno. Ho notato, io adesso uso un Nokia E72, ho notato un miglioramento tra l'E71 e l'E72. Il motivo della mia chiamata era questo. Trovo che sia piuttosto pressante il fatto di non aggiornare i sistemi operativi. Io ho diversi telefoni Nokia, ho un E70, funziona benissimo. Ho scoperto di non riuscirmi più a collegare con la rete di casa semplicemente perché ho cambiato il protocollo del VLAN. Non c'è verso di poter utilizzare questo telefono, che funziona divinamente bene, per poter utilizzarlo per navigare su internet mentre sono in casa, e devo cambiare telefono, cosa che non succede con l'Apple. In effetti ho regalato l'iPhone 4 a mia figlia, e devo dire che sarà pure un bel giochino, però questi problemi non li ha. Tutto qui. Sì. Grazie Luca, ottima testimonianza, perché è vero che ad esempio una delle cose che fa molto bene Apple è nella connettività delle reti Wi-Fi. Sì, la quantità delle reti Wi-Fi, poi ha attivato, questo qui devo dire secondo dopo Android, ovviamente il fatto di poter avere anche lo spot privato, quindi crearsi una rete Wi-Fi con la propria connessione 3G, insomma molte cose. Quello che dice il nostro ascoltatore è molto interessante, perché in realtà gli smartphone non sono più prodotti monolitici che servono per telefonare chiusi su se stessi, ma interagiscono con tutto il mondo, interagiscono con internet, interagiscono con gli altri apparecchi di casa. La mancanza di aggiornamenti corrisponde a un declino inevitabile dell'utilizzabilità di quel prodotto, perché tutto attorno, tutto cambia, in tecnologia cambia tutto continuamente, e un telefono che entra in un ecosistema e non è più un apparecchio a sé stante è costretto ad evolvere, se no effettivamente non funziona più, anche se in perfetto stato non funziona più. Sì. È probabile secondo te che con il passaggio, con la scelta di passare a Windows Phone, Nokia garantirà, quindi di fatto poi non Nokia ma Windows e Microsoft, aggiornamenti più costanti, più affidabili, più frequenti? Allora, la storia breve di Windows Phone è di pochissimi aggiornamenti, direi uno importante che c'è stato passando dal 7 a 7.5. Era stato detto all'inizio che ci sarebbero stati aggiornamenti, piccoli aggiornamenti costanti. È soltanto una scelta, sono nella condizione di farlo perché l'hardware è molto simile, cioè non c'è una varietà di hardware, le risoluzioni sono tutte uguali, quindi non ci sono grandi difficoltà a mantenere il parco di oggi assolutamente ben manutenuto sul fronte degli aggiornamenti. Bisognerà vedere le scelte di domani, perché oggi Windows Phone è un telefono che non è dual core, per esempio, sì. Quindi non può accettare processori dual core, ha una risoluzione comunque molto bassa, non ha il video full HD, cioè ha delle limitazioni che, diciamo, il progresso e la concorrenza farebbero pensare, no, che debbano essere superate a breve termine. Allora, quando il parco di terminali Windows Phone 7 diventerà più numeroso, ci saranno problemi per avere aggiornamenti consistenti per tutti oppure no? E qui sarà Microsoft, dovrà essere brava nel fare un sistema facilmente aggiornabile senza problemi su tutti i livelli. Riprendiamo tra un minuto. 2024. Le 16:48 minuti, sentiamo Mirko che ci telefona da Verona. Buongiorno Mirko. Sì, buongiorno a voi. Io credo che il 40% più o meno degli utilizzatori di cellulari abbiano ormai il doppio cellulare. Quindi mi chiedo come mai solamente poche sottomarche danno la possibilità di avere il dual SIM. Quindi dice doppio cellulare perché hanno doppia SIM in realtà. Sì, perché hanno doppia SIM, una per il lavoro, una per la vita privata. Chi non ha il doppio cellulare ha due SIM, le scambia in quel telefono, giusto? Esattamente, allora, come mai? Solamente pochissimi casi, penso un paio di averne viste. Sì, non sono i produttori principali, sono produttori italiani che progettano cose in Italia e le fanno produrre in Cina, ma sostanzialmente per un motivo... per un unico motivo, perché quasi tutti i produttori hanno uno stretto legame con gli operatori. In Italia la maggior parte dei telefoni vengono venduti liberamente nei negozi, siamo grosso modo ad una percentuale del 30-40% di telefoni che vengono venduti con operatore, ma all'estero queste percentuali sono molto più elevate. Pensate che addirittura negli Stati Uniti si parla del 90% dei telefoni venduti con operatore. E quindi agli operatori la doppia SIM non piace, perché vogliono legare naturalmente il telefono ad una sola SIM, e quindi i produttori di telefoni, avendo questo buon rapporto, cercano di mantenerlo buono, e quindi non presentano o presentano pochissimi, perché effettivamente c'è qualche telefono in doppia SIM anche di produttori, se non sbaglio, coreani o cinesi, ma forse nemmeno sul mercato italiano, insomma c'è altro. No, ci sono sul mercato italiano, c'è anche una querela legata a un brevetto di una società italiana sul telefono doppia SIM che è stata al però centro, fondamentalmente insomma questo è il motivo. Dunque non abbiamo ancora accennato, pare che nessuno sia preoccupato dei prezzi, perché pochi ci hanno detto che costano molto questi telefoni, però visto che all'inizio abbiamo accennato ai prezzi dell'iPhone 4S uscito ieri, che costa in Italia da 659 euro in su fino a 899 sul mercato libero. Allora siamo abbiamo i prezzi più alti d'Europa, abbiamo detto. Voi su dday.it avete fatto una tabella molto facile da comprendere che ci dice quanto in realtà ci costerebbe un telefono di questo genere se lo compriamo con l'operatore. Apparentemente zero. Sì, apparentemente, però, in molti casi apparentemente zero, in realtà ovviamente il costo del telefono è annegato nel canone che paghiamo per avere un servizio, va da sé, quindi per avere anche dei minuti di telefonata che sono forfettariamente compresi in tutti i vari piani, ma il telefono ovviamente si paga. Poi ci sono delle soluzioni che possono essere più o meno convenienti a seconda di uno cosa già sta spendendo, magari perché è un vecchio abbonamento, piuttosto perché proprio guarda caso si intrattiene molto al telefono, quindi magari con un pacchetto con molti minuti, mese di comunicazione riesce ad avere il telefono, il costo del telefono molto più diluito. Ma la sostanza è che qualcosa è cambiato in maniera molto chiara. Per esempio il vincolo. Tutti i contratti ovviamente che prevedono il telefono, soprattutto il telefono gratuito, prevedono un vincolo temporale in cui non si può uscire se non con delle penali, e le penali sono molto alte, quindi diciamo che non si può uscire. E, di 30 mesi. Questo vincolo era in molti casi di 24 mesi, sì, sì. Anche con iPhone. Tutti i piani a 24 mesi sono scomparsi. Tutti i piani ora sono a 30 mesi, quindi siamo passati da 2 anni a 2 anni e mezzo. Devo dire che 2 anni e mezzo sono molti. Per uno smartphone sono molti, non fosse altro che viene usato moltissimo, che è un prodotto portatile che è sempre a rischio di caduta, danneggiamento, e quindi comunque in qual caso se uno a metà del piano distrugge il proprio telefono per propria colpa, evidentemente va avanti a pagare fino a fine del piano e deve comunque comprarsi un altro telefono, quindi 2 anni e mezzo è una bella scommessa, una bella ipoteca che bisogna fare sul futuro e anche sul fatto che il telefono poi sia effettivamente aggiornato e aggiornabile, ma di questo ne abbiamo già parlato. Sicuramente, visti i numeri che sta vendendo iPhone nel mondo, i numeri italiani non ne abbiamo ancora, anzi probabilmente non li avremo perché solitamente l'Apple non dà dati sui singoli mercati, ma comunque vedremo. Il fatto che però questo telefono, insomma, abbia avuto un successo a questi prezzi conferma che molti consumatori ritengano che valga questi soldi e che il sistema operativo sia attualmente il migliore. Sì, assolutamente, direi che in realtà un cherry picker, quindi un opportunista, un consumatore opportunista potrebbe buttarsi in questo momento anche su delle soluzioni con iPhone 4, forse non 4S, perché comunque resta un telefono assolutamente aggiornato e non così drammaticamente diverso dal 4S. In ogni caso bisogna sapere che quando ci si avvicina a 4S con un abbonamento, nel migliore dei casi, nei 30 mesi bisogna pensare di sborsare 1000 euro almeno. E 1000 euro intendo dire per avere con Tre, che è il gestore che offre il piano più economico, 400 minuti di chiamate al mese. E quanti giga di traffico? 2 giga di traffico al mese, che sono più che sufficienti, però stiamo parlando comunque dell'iPhone 4S da 16 gigabyte, perché già se si va chiaramente sul 64 gigabyte si aumenta questi costi di 1200 euro. Quindi però, uno spende 1000 e qualcosa euro alla fine di questi 30 mesi, ammesso che non vada oltre le soglie, cioè che non parli di più e che non consumi più traffico. Deve stare entro quelle soglie, cioè, però attenzione, 1000 euro è il caso migliore, perché poi abbiamo piani che anche senza superare le soglie di questi piani toccano i 3.000 euro in questi 30 mesi, quindi costi sicuramente importanti, forse diciamo dimensionati per un businessman molto impegnato, però sicuramente molto importanti. Dunque abbiamo terminato questa puntata, vi ricordo che anche noi partecipiamo appoggiandola a questa campagna per abbassare le tariffe della telefonia mobile, quindi abbassalatariffa.it, metteremo un link anche sul nostro sito internet e sulla nostra pagina Facebook. Grazie per la vostra attenzione, grazie a Gianfranco Giardina, direttore di dday.it. Ciao Gianfranco. Grazie mille. Io sono Enrico Pagliarini, la nostra email è 2024@radio24.it. Tra poco questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. Start.